magari auguri, se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più. Ti senti pronta a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombole a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore. Troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei pronto a cambiare vita, a cambiare casa, a fare la spesa e fare i conti a fine mese, a la casa al mare, a avere un figlio e un cane, ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrente, tutto questo per amore. Forse partirò per dimenticare, per dimenticarti. Di te. Di te.